Rani morti sulle patere, a la paniera, sei dalla terra. Però sei l'uomo della guerra, io sarei dalla vittoria. Yeah, I thought.